Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata della mia trasmissione Radio 24. Ricordiamo subito la mail unabusoalgiorno@radio24.it, il mio blog Guardie o Ladri, come la trasmissione che conduco il sabato sera alle 19.30 sempre su Radio 24. Lo trovate sull'homepage del Sole 24 Ore, il mio blog, oppure robertogalullo.blog.ilsole24ore.com. Se lo visiterete, scriverete commenti o proporrete temi, mi farà veramente piacere. Allora, ieri abbiamo cominciato a parlare di abusi o supposti abusi effettuati nell'assegnazione o nella riassegnazione delle case di edilizia pubblica, quelle che una volta si chiamavano case popolari. Siamo nel Lazio, siamo in provincia di Roma, ma in realtà potremmo essere in provincia di Milano, Napoli, Catania, Mantova, Trapani, Caltanissetta, non cambierebbe nulla, perché spesso i problemi sono gli stessi. Ed allora ieri abbiamo parlato di una famiglia che avrebbe voluto spostarsi in un appartamento più grande per esigenze di crescita familiare dopo aver avuto un appartamento momentaneamente assegnato. Fatto sta che questo è stato per anni impossibile, anche perché si attendeva e si attende, come ci ha detto ieri l'architetto Valerio Ciafrei dell'azienda territoriale per l'edilizia pubblica di Roma, della provincia di Roma, una pulizia delle liste, controlli che togliessero il diritto a chi questo diritto non lo aveva più. E noi oggi continuiamo a parlare di assegnazione di case di edilizia pubblica, perché purtroppo gli abusi accadono un po' in tutta Italia, e lo facciamo partendo dal responsabile regionale per l'edilizia pubblica, quindi gli ATER di tutta la regione Lazio, del Sunia CGL, Cafiero Tomei. Buongiorno Tomei. Buongiorno. Allora, ieri lei ha ascoltato quello che ci ha detto il nostro radioascoltatore Giuseppe Boresta e quello che ci ha detto l'architetto Valerio Ciafrei. Allora, quali sono innanzitutto le sue considerazioni? Le considerazioni che dobbiamo fare innanzitutto, che al di là delle giuste proteste dell'assegnatario che c'è l'appartamento troppo piccolo, è chiaro che c'è il problema più ampio, che è quello della costruzione di molte più case popolari, che purtroppo ancora non si sta vedendo. Quindi lei dice, perché è proprio una questione anche di numeri. È un principio, perché se io ho un appartamento piccolo, 45 metri quadri, è stato fortunato fino adesso l'assegnatario a ottenerlo, è chiaro che però l'esigenza sua cambia, però per cambiare la sua per dare una risposta alla sua esigenza è chiaro che occorre una disponibilità di alloggi. Purtroppo e questo è il primo problema, certo. Non ci stanno, è chiaro che bisogna andare al recupero di tutti quelli che potrebbero essere appartamenti o con abusività all'interno, oppure appartamenti in cui l'assegnatario non c'è più, o è deceduto, o l'ha rivenduto. Insomma, è una questione sulla quale bisogna ci siano la volontà sia del comune sia dell'ATER. Ecco, allora, i due insieme devono lavorare. Certo, certo. Insieme non risolvono il problema. Certo, allora sono comuni e sono le aziende territoriali. Allora, detto che l'Italia è un paese pieno di furbetti e non solo del quartierino, noi abbiamo città Napoli e Bari, perché le abbiamo trattate in questa trasmissione, ma anche Roma e Milano, dove ci sono centinaia, migliaia di abusivi che non dovrebbero risiedere nelle case di edilizia pubblica, però ci sono anche casi di piccola furbizia, no? Magari un po' più maliziosa, meno colpisce l'opinione pubblica, come quella che abbiamo sentito ieri dalla voce dell'architetto Valerio Ciafrei, vale a dire 40 persone, 40 famiglie, lui ieri ci ha ricordato, di gente che non ha più il diritto. E allora, fuori onda, ieri Giuseppe Boresta ci diceva: ma che cosa li hanno aperti a fare gli uffici dell'azienda territoriale, anche in comuni decentrati come Velletri, se poi non riescono a controllare, oppure riescono a controllare ma con i tempi che non sono i tempi della necessità del singolo, ma sono tempi che viaggiano per conto loro. Ed allora le chiedo, Tomei, che cosa si può fare di più sul fronte dei controlli? Io direi di fare anche un po' di autocritica, forse gli stessi inquilini dovrebbero cercare di smettere di fare i furbi, o sbaglio? Ma noi sappiamo perfettamente la situazione dell'ATER della provincia di Roma, che è nato sulla trasformazione dell'ATER di Roma in generale, quindi praticamente è un ATER a tutti gli effetti nuovo, però ha ereditato tutti i mali vecchi del vecchio ATER che è quello di Roma. Di conseguenza anche questa critica che, su Velletri è una critica che abbiamo rivolto anche noi all'ATER, perché la struttura di Velletri, una struttura nata su una volontà più di volontà dei sindaci della zona per avere un punto di riferimento, che come un'attività vera e propria, nel senso che le pratiche all'ATER di Velletri arrivano, però non c'è la disponibilità del personale per svolgere tutta quella che è la pratica, cioè dall'inizio alla fine della necessità. Quindi se fosse così sarebbero inutili praticamente. Non sono inutili, diciamo che sono un'interfaccia immediata e quindi praticamente si rendono conto sul territorio delle questioni che avvisano, però non hanno ancora i mezzi, perché non sono ancora collegati con tutto il sistema dell'ATER, non hanno ancora i mezzi per risolvere i problemi. Fermo restando dico che la questione delle assegnazioni comunque è un'assegnazione che dipende solo esclusivamente dai comuni. D'altronde i comuni dovrebbero avere, ma anche se la maggioranza dei comuni non li ha, dovrebbero avere anche le graduatorie per i canoni. Bene, allora io la ringrazio del suo intervento, noi ci fermiamo qui perché adesso cambiamo pagina, ma rimaniamo a Segni perché andiamo a sentire il sindaco di Segni, Renato Cacciotti. Buongiorno sindaco Cacciotti. Buongiorno. Allora, vorrei cercare di capire una cosa da lei. Qual è il ruolo di un comune nelle graduatorie, nell'analisi e quindi nella procedura dall'inizio alla fine, diciamo, di assegnazione di un edificio di edilizia pubblica popolare? Il ruolo del comune, una volta che ci sono gli alloggi a disposizione, è assegnare gli alloggi secondo le graduatorie che sono state fatte, secondo il bando, secondo le normative che sono previste, insomma. Quindi diciamo così che il vostro non è un ruolo attivo nello stilare la graduatoria, il vostro è un ruolo da questo punto di vista passivo, divenite invece protagonisti attraverso i parametri stabiliti dalle norme, dalle leggi, non è che può essere a discrezione dell'amministratore o del componente della commissione. Assolutamente, quindi poi il vostro ruolo è quello di chiamare, lo dico come dire, riassumendo volgarmente, la famiglia interessata e dire: lei, da questo momento in poi tu avrai assegnato questo alloggio di edilizia residenziale. Però eccomi, non occorre fare una distinzione però. Prego. Questo secondo la normalità, secondo il bando e secondo le graduatorie in funzione e in essere. Poi ci sono le situazioni di emergenza abitativa. E dunque lì cosa succede? Il sindaco allora, che poteva... Ci sono delle situazioni particolari, non so, per sfratto esecutivo, per situazioni igieniche dell'abitazione, dell'alloggio in cui uno vive, che non rendono possibile vivere in quell'alloggio, appunto, e se l'amministrazione comunale ha a disposizione eventuali alloggi li può assegnare attraverso la valutazione di una commissione, anch'essa la valutazione viene fatta attraverso le normative, c'è una delibera regionale, certo. E c'è una delibera del comune che recepisce alcuni punti della delibera regionale, e se ci sono persone che rientrano nell'emergenza abitativa possono ottenere un alloggio qualora l'amministrazione lo ha a disposizione, certo. Naturalmente. Ecco, le vorrei chiedere una cosa, abbiamo trattato il caso di un vostro concittadino il quale aveva avuto momentaneamente, temporaneamente assegnata una casa, un alloggio, però accadeva che nella stessa zona, anzi addirittura di fronte a lui, poi abbiamo sentito anche l'architetto Valerio Cefredi e l'altro che ci ha confermato che il caso non è poi così infrequente, insomma denunciavo questo ascoltatore che c'erano e ci sono delle case sfitte da addirittura 20 anni, o meglio assegnate ma in realtà di fatto non abitate. Allora le chiedo, da questo punto di vista voi esercitate dei controlli, siete di stimolo, di pungolo, segnalate la cosa, come funziona? Esercitato una serie di controlli. Abbiamo iniziato con il sollecitare l'ATER, l'istituto, a fare delle opportune verifiche. In accordo poi con l'ATER, qualche anno fa, dal 2007, tutto il 2008, l'ufficio vigilanza del comune di Segni hanno verificato appunto l'occupazione o meno di questi alloggi. Ah, quindi voi avete un ruolo propulsivo, segnalate, insomma un ruolo attivo. L'ATER, in accordo con l'ATER, poi attraverso i nostri vigili urbani abbiamo fatto gli accertamenti negli ultimi 2 anni. Secondo lei, lo dico in maniera senza ovviamente colpire in alcun modo un'amministrazione o un'altra, cioè la regione Lazio piuttosto che la regione Sicilia o la Lombardia, non mi interessa, ma secondo lei sono sono così diffusi i fenomeni di malcostume che possono andare dal, beh, perché no, dagli episodi di corruzione o di concussione a quelli invece più volgari, diciamo così, di abusivismo di case sfitte poi occupate a titolo definitivo. Ma guardi, nel nostro comune ci sono queste situazioni, adesso di concussione non saprei dirle, certo. Ma ci sono situazioni perché le abbiamo accertate con molta buona volontà e con molta fatica, direi, attraverso i nostri uffici, poi hanno fatto dei riscontri incrociati tra l'ufficio anagrafe e l'ufficio tributi con i vigili urbani, abbiamo rimesso una relazione nel maggio scorso all'Atere, con la quale insomma davamo all'Atere lo specchio della situazione. E questo vi fa onore, secondo perché noi c'erano degli edifici, delle abitazioni che erano occupate con da persone che non ne avevano titolo. A seguito di questo nostro lavoro l'Atere ci ha rimesso nel 31 ottobre scorso una nota chiedendoci di notificare degli atti ai sensi della normativa ai soggetti che occupano questi alloggi non ne avevano titolo, quindi sono state fatte le notifiche e adesso aspettiamo che questi alloggi vengano riconsegnati al comune. L'Atere ci ha rimesso un elenco di persone alle quali notificare un atto di diffida per farci restituire appunto questi alloggi che sono occupati senza titolo, senza averne titolo. Bene sindaco, io la ringrazio per il suo intervento, così come ringrazio in regia Pietro Lacorte e in studio Laura Fagin, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.